Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Milano e sono venuto al cosiddetto Museo di Sant'Eustorgio, che si trova proprio nei chiostri dell'antica chiesa domenicana di Sant'Eustorgio, vicino alla Darsena dei Navigli di Milano. Questo museo molto importante, che raccoglie tutte le collezioni, diciamo così, della diocesi e dell'arcivescovado di Milano, offre per un certo periodo una mostra piuttosto interessante, che offre anche la possibilità di fare delle serie riflessioni sui pericoli continui e costanti che il patrimonio artistico corre, soprattutto se gli uomini decidono di farsi la guerra l'uni con gli altri. Questa mostra è curata da Sandrina Bandera, è una mostra itinerante che si basa sui materiali che tutte le sovrintendenze e i musei italiani conservano nei loro archivi. In tutte e due le guerre si cercò di correre i ripari subito. Come si fece? Intanto si misero sacchi di sabbia intorno ai monumenti. Noi vediamo interi monumenti, intere facciate di chiese, intere facciate di palazzi ricoperte di questi sacchi di sabbia, nella speranza appunto che questa protezione li salvaguardasse dai bombardamenti. Poi naturalmente fu necessario, quando questi bombardamenti arrivarono sul serio, portare via le opere d'arte. Quelle che si potevano muovere vennero durante la prima guerra mondiale portate naturalmente lontano dal fronte, che allora era sulla linea naturalmente del Piave, nelle regioni del Friuli, del Veneto e del Trentino, e vennero portati tutti quanti a Roma. Noi abbiamo delle bellissime immagini del cortile di Palazzo Venezia, che ospita per esempio i cavalli di San Marco che erano stati riparati lì. Nella seconda guerra mondiale invece le cose andarono un po' diversamente. Subito si agì, già il 10 giugno del 1940, quando scoppiò la guerra, i funzionari dei musei avevano già portato via le opere e le portarono quasi tutte nel centro Italia, cioè al sicuro, lontano dalle strade ferrate, lontano dalle industrie, eccetera. Fu una scelta tremenda, perché la storia volse in modo inaspettato. Dopo l'8 settembre il centro Italia divenne davvero il punto focale della guerra, con gli alleati che salivano e i tedeschi che cercavano di difendersi. Il patrimonio scampò miracolosamente a questa incredibile guerra, e questa mostra, attraverso le fotografie, ci mostra tutta l'emozione, i pericoli e anche l'ardimento dei funzionari che salvarono in qualche modo il nostro patrimonio artistico.